mano è in cucina, a cucinare. Gappa, gappa. Non ho sentito voci, ma non ho capito chi era. Il signor Aira mi ha chiamato quando stavo fanno la barchina così a te. Mentre prendo mano un secondo in cucina. E sono andato là. Pagava. Cioè, va bene, va bene. Sono 2.300. Mi ha fatto un bel passo, ho eliminato l'ecco e sto cedendo solo di amplificazione, basta, fissa. Bella, bella. Quella radio pulita, ordinata, senza problemi, senza problemi, va bene. No, io mi ero, sono entrato presto, ho messo un po' in ordine qua. Ho messo un po' in ordine, ho in ordine, cioè in ordine. Spolverare un po' la radio. Un pennellino, un straccio, sulle latte sotto, sopra. Un casino, ma se no, troppa polvere, cazzo, troppa polvere, poi lascio la finestra aperta. Però io ci sono sempre aperto con la finestra, allora così brilla poco e fa fermo fuori. Ma come c'è la possibilità di aprire la finestra? È meglio, è meglio, almeno gira l'aria e la stanza rimane sempre pulita. L'unica cosa che c'è di buono qua posso uscire, sono a leggere le mutande in casa e nessuno mi vede da fuori, invece posso guardare gli altri col binocolo. Che ti chiedi io, come ti dico, sono mutande a pettrugno, a ricuzza, tanto tutto a petti, no? Non vede nessuno, va bene così. No, è che si muove più l'acqua, avevi ragione, non l'ho mai detto. Guarda un bel verde, un silenzio, cazzo. Che dai, è vero di ventenni, ma quello di ventenni. Casino, traffico la mattina, non si poteva riposare, giovenni, cazzo, l'ambulanza, vai, vieni, va, vaffanculo. Non è tutto questo. Beh, è stato come quando è capitato a me, quando ero trasloccato a casa da una... Aspetta, vediamo voi. Che cosa? La mia catena Fossati ci ha trovato a Caporazzi. Ti ho fatto la stessa cosa che ho fatto io, sono salito mai io qui su. E tu? La stessa cosa che per giù al centro storico, sceso mai io al centro storico, poi sei sceso tu, dove abitavi prima. Tu hai fatto solo lui e sei andato anche tu. Destino, eh. Mi è stato un investimento, già non ho perso niente, comunque non mi muovo più l'acqua, manco per le palle. Oh, un silenzio, ragazzi, ma silenzio, boh, mi era troppo casino, poi il fatto del garage, capito? Adesso sali scendi al garage, qua apro il cancello, sono dentro a casa. Una fragosa. Vabbè. Ho voluto provare. Adesso va bene così. Quella ce la già c'è, rimani. Non ti sono andato a tirarmi la posta. E vera la sorpresa di Abanolga. Ammazza che mi riguarda. Ehi, vabbè, io mi sono fatto, quando abitavo già sul storico, ho fatto il foglio come pratica quella per pagare di meno, capito? E mi arrivavano, di acqua si è molto pagato, ma mi sono proprio pagato 120 euro di acqua in 3 anni, figurati, come terzata. Dove abitavo invece le cose subito di manuale c'erano 3.000 euro a pagare. Sono venuto dal CIO, ha detto guardi così, dice ma di chi? Gli ha detto io, ho detto mi hanno chiamato come capocondomino, vedi, e quando sono andato via io ho detto mi sono trovato, nessuno ha pagato la bolletta dell'acqua. Dice allora se ne freghi, non sappiamo niente, allora non arriva dentro, non si deve preoccupare, mi ha detto. E poi ho detto vedi a casa se questa è qualcosa, ha detto se no becco una barra, ha detto qualche sedia, qualche carrera, ha detto. No, invece mi hanno lasciato in pace, non ci ho capito per niente, visto che hanno bloccato la casa, la padrona di casa, e quindi lì se vuole affittare deve pagare 3.000 euro di acqua, di 3 anni, perché lui non saliva su, ha entrato a affittare e pagava l'usa, compreso, perché è stato a me. Mi davano e stacciavano i fogli. Sono scemo. Sta attento. Sono i firmatori e sta tutti di. Se non avevi niente in carico, non te ne frega niente. No, beh, mi è arrivata l'acqua che ho consumato dal 2009 al 2010 praticamente. Gli altri erano tutti a posto. Ma stavo aspettando, pensavo arrivasse di meno, cazzo, mi arrivi 280 giri, ma me l'hanno già mandata in tre volte. Me l'hanno già messa in tre bollettini. Vabbè, e se no mi riparavo, non fatti nulla, vabbè, lasci i bigliani a matta e ci quitti. Lo stavo dicendo, ma io ho le mie 300, e ancora dentro la busta con un uomo, l'avevo usato due volte con le Superstar, ci va molto bene. E come hai fatto per toglierlo, ecco? L'ho fatto un bel passo. Ha fatto un ponte e in pratica l'immediato il cosa c'è solo amplificato e non esce nient'altro, né ecco né nulla c'è. Invece solamente amplificato, un ponticello devi fare, lo faccio vedere dove si fa e così lì mi ricorda qualcosa. C'è la schermina, lui faccio la prova, ho fatto così, tac, ponticello è uscito di radio, mulato, durato così, il LED accende. L'amplificazione c'è, non funziona nello slider, in pratica te lo elimina, tanto meno i potenziamenti interni, quindi è direttamente diretto, amplificato diretto. Sto facendo un quello lì, guarda un po' come sto uscendo, quindi sono vicino, 1 e 3, e così sono di tante 20 cm. Non va bene, va bene, va bene, no, ma lo tocco il nuovo, nuovo, lo lascio stare, sia che magari qualche giorno voglio attaccare le Superstar, vabbè, c'ho anche tane più 3. Attaccare su questa la farà andare sempre di fermo, non l'ho più acceso, manca acceso l'ho più. Domani che ho l'alimentazione non tengo acceso almeno. No, no, non lo tocco quello lì, volevo capire cosa avevi fatto. E ne ho microfoni da palmo. Vabbè, a parte la 300, c'ho anche il 600, poi quelli della Lancia li ho tutti. C'ho anche le F13 che esce molto bene. Sono tutti dietro il cassetto, che sei, di là non avevo spazio qua, una volta che c'era la stanza tua, ho messo tutto a posto i cassetti, microfoni con microfoni, cavi con cavi, adesso mi sono legati bene del roba. Ho trovato anche una, sai come quei mini rosmetri da macchina, bellino, che faceva le praticamente gli 11 metri e più le VHF. Hanno collegato una radio di quelle VHF, perfetto. Avevo roba da fare il garage, non sapevo una cosa via. Bah, negli armati. So che quando poi traslochi e liberi tutto, pulisci tutto, ti trovi tutto di mano. Si è trovato, cazzo, non mi ricordo come si chiama, aspetta. La devo andare di alto, non c'è solo la luce perché ho, vabbè, di portatile ne ho 9. E c'era dentro l'armadio anche il Black Jaguar. Tu ricordi il Black Jaguar? Il ricevitore, quello che se magari non ha, solo non lo riceve. L'ho acceso l'altro giorno. Ma è una cosa allucinante, c'ha quell'antenna spiralata in gomma, piccola. Cazzo, il Black Jaguar. Cazzo, mi pare che l'avevo comprato nel 90, che sono ricevitore. Non sapevo manco di averlo. Costava un sacco di soldi con il ricevitore anche. Se non ricordo per te già guaccia. E facile anche da usare, ma è una cazzata, c'è una grande da in gomma, sarà perfetto. Ma sono belli, certo, come tenetevi, neanche venditi, riescono a parte. Quando c'è da fare qualche cosa, pigli così come ricevitore, se va benissimo. Tanto fino alle 10 mi pareva quelle del Pigiagua, se non mi ricordo male. E fino alla 900? No, vendevo nulla io. Oh, ho fatto una... quando ho fatto il Giulio tutto qua il lavoro, ce l'ho messo, ci sono tutti i portati di fila, ragazzi, nei giannubi. VHF, questo qua che già ho in mezzo. punti della ICOM, sono bellissimi. Poi questi li porto quando faccio servizio con Walter, non Walter Diabolico, Walter è il meccanico, quello che c'è via Pasqua, non lo devo filare, li portiamo sempre appresso due, insomma, e ci stacchiamo e comunichiamo, tanto sono civili, quindi non disturbi nessuno. No, ma non c'è quella roba, anche un barosmetro, quelli grandi professionali con due display che hanno la mano con l'accento, tipo quello della Kenwood il 2000 o il 1000, come si chiama, però questo è della Broxel. Ha tutta la roba, diciamo, cacchio, tra lampada, dove stanno armati. Tra l'altro un bagaglio marino grande, bellissimo, nero, un Ranger, quello di città, ma anche quello ha trovato. Sta vogliando un ballo. Ma va bene, basta che la cosa da fare, la metti in esposizione, la tieni così, anche se non sei utilizzato. Cioè va bene lo stesso. Il radio lo utilizzo, già ne ho. Ma questo, visto che avevo spazio, ho fatto una cosa. Se non riuscivo a capire, l'ho messo il tasto, ho lavorato il CW, il tasto cazzo in legno bellissimo in ulivo, ecco, l'ho trovato finalmente, molto bello, col puntalino in oro e tutti gli affari 8 un attimo, molto bello, anche quello ho messo in esposizione, e già ne ho rubato, non ti preoccupa, ne ho. E poi il cielo l'ho trovato, la radio, quella VHF, solo VHF però, è abbastanza espansa, con la microfonetta e la tastiera tutta digitale, quando c'è il numero è tutto verde, ma bella anche quella lì, sempre la ICOM, chissà in cacchio, ma l'avevo comprata, perché prendevo sempre le stesse bambine che le mettevo dentro l'armadio e adesso me le ho tutte ritrovate. Non avete la parola di voi, ti dimentichi che li avete messa lì, cosa, e quindi non ci, anche perché nasce perdere le mezzi, nasce solo fuori qualcosa, 5-6 radio al limite, il resto ti ho dimenticato di averlo dentro, figurati tu. A volte già si recupera un po' di roba, io perché faccio un po' di soldi, vedi io, un bel puio, senza le base, un paio di portate di quelli, come diceva Stefano, 100 euro, e così oggi ho venuto di comprare la roba, ma non ti vedi, andiamo, bastano quei due che c'ho, 2009, e il tempo, boh, non prendo altro, basta, è avanza per me, poi c'è il trasmettitore FM, è un sistema, e così è stato lo uso, e mi metto a trasmettere musica, paio d'ore al giorno, quando la giugata, se no che rimane spento qui. Mi dice bella bella anche quella roba, magari ti fa una carrellata nella frequenza, ascoltare e fare, già va bene. No, io poco sto entrando in buio, no, non c'ho tempo, mi siedo qua la sera, fa una sigaretta. Guardarmi male qualche programma che loro non vogliono vedere, che c'è la santa via, e quindi apro la finestra con una sigaretta, due chiacchiere con Antonio, con te, stai entrando, un po' tempo a Luigi, Pinuccetto, oggi non si è sentito, ora è già 9:10, giusto per ammazzare un'oretta, e poi basta Antonio, e ma c'ho l'aria anche 70 anni, io figurati, c'ho lì col 271 base grandissimo, che senza antenna, perché ho più radio che antenne adesso, e quindi ho anche un 140 senza antenne, ho un commutatore, ma non mi basta, devo avere voglia, mi è arrivato il cavo già una settimana, lei su in mansarda, all'unziato in Chivi, cazzo mio, voglia, no? Non nasce più grande, ma poi adesso però domani scendo da Luigi, mi devo ritirare l'antenna, mi ha lasciato Salvatore, piccola miscela, devo piazzare quella nell'altra 5 bande. Però non giocavo, troppo caldo, quindi potevo approfittare questi giorni che stavo facendo quelle sul venticello fresco, però era troppo forte. Stare giù a quell'altezza non mi fido. Quando mi gana di fare, piazzo di un cazzo da morì, ma c'è la vita del culo, domani sono a riposo. Me ne vado al mare domani con mia moglie, domani mattina all'Ido lì a Plattamona. Non posso nulla, va giù tutto, sdraio, barrone, pranzo lì, faccio pagare 10 euro tutto il giorno e poi me ne fa pranzo lì con mia moglie. Verso le 5 e mezza, alle 6 ce ne saliamo. Ma mi rilascio un po' da rito, se no, cazzo, non sono neanche al mare, sono la lasciamo a parte, e hanno a tempo. Vedi come andremo a fare così. Se giù al mare, come puoi chiudere i soldi, sei tranquillo, quando vieni a casa che sì, vabbè, ti stanca, perché il mare ti stanca. Ti rilassi, quando sei venuto a casa, quindi ti dico che lavori, ma con la parecchia accendi. Figurati. Ma poi ho delle ore di parole, insomma, cazzo, mi alzo alle 5, 5 e mezza, tutte le mattine. Faccio subito il controllo dei vascoli qua, quelli più importanti, i vascoli d'utenza, per vedere se sono tutti a posto, se magari sono bassi, faccio qualche regolazione, poi alle 7:15, 7:10, mi vedo con un falchetto sempre lì, perché passo al ginepro a prendermi il caffè e le sigarette, ci troviamo lì 10 minuti, spendiamo un caffè e una sigaretta e poi 7:10, 7:15, via, ci vola, ci parte, perché poi devo arrivare fino a Trentino a fare tutti i controlli ed è un casino. Meglio partire presto, anche se non stamattina ho lavorato benissimo, perché c'era l'altro venticello fresco, era un po' coperto, non c'era caldo. Ti dirò che sono stato bene, poi verso mezzogiorno, così 11:30 è iniziato il sole. Si è aperto un po', infatti la scendo e vedrei a caldo. Mi sono fermato lì via Pascoli, che ho visto con il mio amico il produttore se che vende il pesce, che sale dal produttore da Sassari con la macchina, vende il pesce fresco, ho preso un po' di calamari, un po' di triglia e una zuppettina. Il zuppetto mi fa la fatta mia moglie stanotte e il calamari per domani, con le triglie e basta. E poi mi gioco di lato a casa. Me ne sono tornato a casa e ho fatto rientro alle 2:30 e sono uscito alle 10:17, non so. Quindi a quella lì non mi è più pulito, mi sarà a rompersi le palle. E glielo guido io, comunque non arrivo mai. Ho rifatto qualcosa, figlio, a casa, mi guardate la televisione, sdraiato e pronto a coccarsi. Io sono la prossima mattina alle 4 e ieri. Se si attuisce, dopo le 4 sono svegliato e ciao. E quindi sono stato un giorno così. Mi sono uscito e mi sono ripreso un pochettino perché mi sentivo strano stamattina, mi sentivo male. E quindi sono uscito, sono andato a prendere un paio di birra, c'era al centro storico l'attore, sono fatto una passeggiata, ho fatto anche un po' di soldi e mi sono trovato. E poi ho fatto la spesa e adesso fra poco cena. Ehi, va bene, non sei così, non c'è problema, non mi esauro più. Stasera rilassato, forse perché so che domani non devo andare a lavoro, però mi sono rilassato. Adesso vediamo se fa bella giornata, che non c'è vento, eccetera, è già deciso per il mare, se no mi trovo a casa e mi rilascio, mi riposo un po', perché ne ho veramente voglia. E poi vediamo sto ferragosto, cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare. Ma non è ferragosto domenica o sabato? Sabato mi pare che venerdì è 13. Cazzo, venerdì è 13, quindi sabato è 14, non è 15. Domenica è ferragosto. Cazzo, sabato lavoro io. Sabato mattina io lavoro. c'è, però devo lavorare, devo controllarmi tutto, se no non metto un casino, almeno per la domenica. E poi riposo domenica e lunedì, quindi giorno farò otto, giorno dopo farò otto, perciò sicuramente non ho sentito gli amici, mio fratello eccetera, ma saremo sicuramente in campagna in qualche parte, se non vediamo come l'anno scorso al mare. Ma per me è una rimuovete tutti l'altro, come una fottenuta. Dai, quello sì, no, sabato mi hanno invitato a cena un'amica, quindi no, penso di andare lì a Use. Bevo gratis, mi accompagnava a casa, non di più. Non è che bevo così, perché non è che mi frega poi tanto bere tanto. Sono fuori, bevo il giusto, mangio, e la piglia in Napoli. Se vuoi venire un po' qui mi sei poco. Io la vedi camminando alla una come minimo. Aspetta, faccio un attimo di blanco, come quella per me mi chiede di vita. Ma va, ci sono qua, ascolta. Birra. Kappa, kappa, ebbe. ciò che gli pare appare dalla propria pelle. Cazzo, sei incosciente, se sai che non puoi farle certe cose, non le fare, cosa? Cazzo, chi va in sede? Dice, ma in sede devi un'aranciata, devi una tratta vera. Adesso non c'è la birra alcolica, che è buona lo stesso, il gusto della birra c'è, però non c'è gradazione. Ma basta quello. Ci sono tante altre cose da bere, si può fare una spremuta d'arancio, una cosa. Cioè, non è detto che deve bere per forza. Puoi bere qualunque cosa pur che stai dentro i tuoi limiti, diciamo così. Avere lui invece sembra che la birra lo solassi, allora noi lo lasciamo solassare, lui dice le biglie ad un muro. Vabbè, non sono abituato a bere sempre la stessa cosa, poi viene male a staccarti, è un problema. E vabbè, comunque, ripeto, ognuno fa quello che vuole, se deve dormire, la vita è vita. Io non la bevo bella, non mi piace, posso berne proprio un bicchiere se ho sette, ma non è una cosa di mattina, non me lo piace tutto. Buona roba gasata, non ci vado molto d'accordo, mi piace molto la gasosa col vino, La gasosa col vino mi piace perché mi dissetta, ma altre cose non mi interessa. Cappa, no, io già quando mangio un bicchiere di Coca-Cola, qualche volta un bicchiere di birra, ma mangiando però non fuori dai pasti. E sempre che capita l'occasione, ma che vado a cercarla di proposito, non esiste qua. Niente da fare, non sono d'accordo con te. E vabbè. E allora Salvatore, ti senti tu? Salvatore, non l'ho più sentito, non so se c'è la famiglia qui, non ho saputo più nulla. È vero, no, anche perché io ho un apparato da Salvatore mio, però non so se tu lo conosci, quello piccolino della Iaiso. Sì, che lo conosco. No, io gli ho preso un po' di roba che aveva, ma roba che serve proprio a me come l'animatore. Ho preso un VU, dei microfoni che c'aveva, degli strumenti che mi servivano, poi l'antenna VU, quella ce l'ho io e l'ho lasciata da Luigi, perché nella smart non ci stava e devo passare con la furgonetta a prenderla, non ci ho cazzo mai 5 minuti, ma questa settimana vado, me la prendo, e così quando vado in ferie la piazzo, se no si diridi chi si antenna. Vabbè, lì a casa di Luigi non ho problemi. Un po' di materiale me l'ho preso io. Sì, stava terminando di imballare, di fare, e poi credo che sia già su dove sei tu, e qua non ci sia più nessuno. Così mi aveva detto, così ti sto dicendo. Poi non lo so se sta scendendo ancora, ma credo di sì, perché ancora sto mettendo a posto tutta la roba. Ma io so che lui è su, che hanno pigliato una casa su per non stare sempre a viaggiare, però in definitiva non so niente, capito? Anche perché io mi interesso molto degli affari miei, di quelli altrui. Non è che mi interessa più di tanto, la pizza che non me la faccio nulla. Sì, la stessa cosa ti dico, neanche io so niente, siamo solo sentiti per telefono e mi ha detto che stavano andando a fare questi miei lavori e basta, non mi ha detto altro. Se mi serviva del materiale radiantistico, perché lui doveva staccare tutto. Infatti credo che ne abbia tolto anche la Mantova e l'abbia ce l'abbia Luigi lo stesso, perché è quello più vicino, quindi si è appoggiato a lui. Infatti la roba era tutta lì, io poi sono andato e me l'ho presa da lì. E niente, basta, non mi ha detto altro. Mi ha detto solo che stava guardando il cavo e basta. Altre cose come te non mi interessa e non le voglio sapere. Mi occupo dei fatti miei e delle cose mie, che sono molto più importanti di quelle degli altri. conferma, no, io non ci sono manco più passato lì vicino, perché qualche volta prima mi capitava, prima oddio, magari adesso quando si viaggia dalle ferie mi capiterà di dover fare qualche cosa in quelle coordinate, ma niente di particolare. E poi a me, diciamo così, non mi piace manco appuriosare le cose degli altri. Meglio vivere tranquilli e sereni, facendo sempre i fatti propri. Basta. Si conferma, Maria, stessa cosa ti dico. Devo pensare alle proprie cose, basta. No, ma comunque io, mi ha detto lui queste cose che ti ho detto, basta, per il resto non so quale scelta l'abbiamo portata a fare un passo del genere, non so niente, ti ripeto, non mi interessa. È solo tramite Luigi fatto avere questa roba che mi interessava, e tra l'altro la cosa che gli avevo dato io, che gli avevo venduto io, quindi giustamente è stato anche molto corretto a dirmi se mi interessava, e gli ho preso tutta la parte VHF, UHF, microfoni, strumenti e balle varie, mentre quell'altro l'avevi già fatto tu. E basta, non ti credo che avesse molte, l'amplificatore in pace abbia Pinuccio, non lo so, comunque non c'è più niente, zero sotto zero. Ho visto quello che portate e stai dicendo tu quello tuo. Cosa? Che cosa è il portatile, quello tuo? Ehi, il portatile è quello piccolino, non è lo della ISO. Sì, sì, era lì, era lì. Ora infatti ha detto che non era il suo, quindi c'era lui, telefono e fatelo là. No, ho provato a chiamarlo, ma non mi risponde mai. Adesso non so se ha cambiato il numero, boh. Boh, anche a me molte volte faceva così, però magari appoggia il telefono da qualche parte, non lo sente Mario, capito? Quindi se squilla già è quello, perché ne ha un altro che è sempre zitto. Ma quello che squilla già risponde, magari è impegnato in altre cose, non sa far risponderti, capito? Se no lo dice a Gigi, loro si vedono spesso che sono vicino, lo passa a Gigi e poi vai e te lo prendi da lui. Ecco, poi perché io sapevo che tutti quelli che stanno lavorando sono su. Quelli che stanno lavorando, poi c'era il piccolino, il maschietto che era lì e credo che era con la madre, ma adesso di questo periodo dovrebbero essere qui perché lui c'ha il gommone da quell'amico mio, e poi loro c'hanno la casa sempre a Sentino e così che dovrà andare pure al mare o no? Non lo so Mario, non lo so, ti ripeto, perché a me le cose che mi ha detto sono quelle che stava traslocando e basta, per il resto non mi ha detto altro, quindi non so se lui è qua, se niente, domani già sono giù al mare, io già chiedo a Roberto, non limite, se combina lo faccio andare io e poi te lo do, capito, non c'è problema. Perché la roba che mi ha dato era sua, quella che avevo venduto io, lui manda, l'altro, ne ho preso tre. E poi i microfoni che mi servivano, anche della mi servivano, dirò che mi servivano, già ne ho. Ma c'era uno bello della 27 e me lo sono preso. E ce l'ho qua. Poi l'altra roba, non mi ricordo a chi l'ha data. Vabbè, quello grande l'ha dato a te, le altre cosettine. Non mi ricordo chi le avete. Ma io mi sono appoggiato quello lì, ma di partire lui ancora non se ne parlava neanche. Lui, questo qui a me me l'aveva dato perché si voleva pigliare il 2000, sempre della Kingwood, che io stavo facendo avere un suo bellissima radio, tutto quello che vuoi, però non pensavo di fare attività in 27 perché è un cesso, è un digitale pieno, è, ha dei parametri molto molto stretti per la pietra modulata, quindi non pensare che puoi fare tante cose come potevi fare col 440, con la serie di quella che conosciamo noi, dai. E quindi è rimasto un po' così, ma hai detto allora vedi tu, se ti piace prendolo, è una cosa bellissima, io l'ho avuta, è una cosa che fa tutto e non fa niente, capito? È un quattro in banda, però o sia da una parte o sia dall'altra, quindi a me preferisco sempre avere una radio per ogni frequenza, 40 metri, 20 metri, 10 metri e così via, VHF, UHF, tutti separati, oppure radio, soprattutto VHF, UHF che abbiano il doppio display, quindi il bibanda come ciò, ne ho due io bibanda, il quadribanda che è quello sempre della Icom che a lui piaceva moltissimo, che però ha detto che poi non ha trovato più perché è uscito fuori produzione. E quindi ti posso garantire che non ha preso assolutamente niente, anzi ha dato tutto quello che aveva. Io l'ultima volta che l'ho sentito proprio quando si è trasferito a Tempio, perché io ero lì, ero all'ospedale facendo una consegna e niente, pure dice che mi avvicino, tanto parlando mi aveva già detto più o meno dove era, dice che ci facciamo un salto, ero anche con mio figlio. Poi l'ho trovato lì e niente, mi ha toccato quasi quasi, me ne sono pentito di averlo preso perché qui non è come a Sassari. E io ho detto, cosa ci vuoi fare? Non ti fare ciambella, sono un buco, cosa gli dovevo dire, scusa. Poi è stata sempre una sua scelta. Distratto, sì, ma non c'è il lavoro, ma io niente di particolare, per carità, direttamente ha degli agganci diversi, quindi ha deciso di andare lì. Ok, avanti, ti ho detto sì. Sì, Sparvier, ciao, salutori a te e a Maria Vance, per adesso, poi non so se c'è qualcun altro. No, non c'è nessuno, siamo solo noi, suona leggermente la radio 8, che è molto bassa. Avanti Mario, partore da ITD. Ciao dottore, la Itri, e beh, come se la va in quelle terre? Anda bene. Oggi ho finito di lavorare verso mezzogiorno, adesso mi sono giornale dopo, fisso, ritorno al mare. Ma mi sono divertito, dai. È fatto bene, e beh, quelli squitternati, più sentiti li hai? Quelli squitternati, e chi? Sì, a Giaguaro, a Coso. Sono io, c'era Gianni Giaguaro e Gianni già l'ho sentito, va, lo sta entrando adesso, di solito entra in inverno una volta, capito? Marcia l'ha impegnato un lavoro, già da entrare, lì si ritrava sempre 27635 lì fa chiamata, capito? Non si sposta di millimetri. È già pagato, ma perché c'era anche un altro attore che abitava lì vicino a te, che lavorava vicino a me invece. E mi ha detto che tu sei sparito dalla circolazione, che non stavi più entrando. Ah, quello è Frecciarossa, Antonello. E lui che non sta entrando, che fa TVI. Io c'avevo un po' di problemi di TVI, ma li ho risolti tutti, capito? E ho risolto i problemi. Ma sei sempre in quella via lunga, sì. No, ma allora lei è sempre dove sei venuto, capo. E lì sono mai, vedi. Qui adesso li ho messo a posto un po' la mantova, che lo sai la c'era, magari non mi sentivi bene per quello. C'era una bobina in corto da un fulmine, una bobina interna. Ma perché? Io a Itri ci vengo spesso. L'altro giorno ho fatto una consegna proprio lì dietro casa tua praticamente, allora, tu mi hai quasi vado a trovare, ma poi ho detto magari non c'è, quello lì è sempre in giro dalle zone. In trabacco sono anche io, sono in Baglietta Mario. Poi quando sono a casa già ci sono, quando ci sono già ci sono. Io sono mettendo in lei, io mi vedo qui a Milano. Andate, lui prendi Claudio. Giacco Giavetta, chi è? Al telefono, vabbè. Non rispondere, in realtà non rispondo neanche io. Bella questo, certo, ma ci sono, ragazzi. È logico, cosa gli posso dire? Quando ci sono, ci sono, quando ci sono, va sceglia, no? Anche io, è logico che quando lavoro non ci sono, no? Non ti vai e trovano. Rolando, non è fatto così. Uno dice, quando ci sono, ci sono, quando ci sono, non ci sono. Già, va bene. Allora, Antonio, devo essere ancora in alto mare, un titolo di travaglio, un cazzo, boh, non si è fatto sentire ancora. Antonio Metal, per Metal, e poi lo posso sentire, lasciamente. Il CP si chiamava Antonio Metal, radioattore. Che cosa? Fammi bene, ma stai dicendo di Antonio IS0GXO? No, quello già lo sento anche oggi. A Falchetto sto dicendo che ci siamo sentiti, va, incasinato il lavoro, sta terminando un lavoro importantissimo, quindi sarà riuscito a tardi. Mio servizio della partita per la nazionale italiana, ma cosa sta facendo? Perdendo, vincendo. Io ho acceso il televisore, ho caricato adesso, ho finito di caricare. E non ne ho mai acceso, ho acceso la parata. C'è la partita nazionale italiana, amichevole, sta provando i giocatori Prandelli, guardando la sua immagine. No, io non la sto guardando, io sono da una parte, mi commeracchi mai se ecco il computer. No, io ce l'ho spenta la televisione, stavo guardando film poco fa, che sembra venuto un gioco. La bella partita, girano i pipiristi, adesso mi faccio un'oretta di radio e poi me ne vado a nanna, uscito domani, ci auguro in metà forma e ci vuole veramente questo riposo entro settimanale e poi lavoro fino a sabato mattina e c'è domenica e lunedì libero e martedì si riprende K. Sei tutto libero, fate bene. sto dicendo, quando mi metto me ne faccio anche quattro, capito? Già mi stanco, cioè già finito un po' tardi, per fare quattro camere, ma me le sono fatte, capito? Ah, io faccio gli angoli tutti a pennello e poi tutto a rullo, capito? A rullo, ma fate bene, no? E poi dite con la pennello io faccio il pennello. E Virducci, non lo state facendo, dottore? Ah? E Virducci, non lo state facendo? Sì, Mario, sì. Lo sto sempre facendo, sì, sto facendo lo serate private. Mi dono un capannone e lo faccio di capito. Poi adesso sono andato con l'aviamento, quelli della discoteca lì, del Blue Star, da, alla siesta, siamo in parecchi. Due sabati fa stavo suonando al campo sportivo a Chiesi, al campo sportivo, capito? Ma cappagappa, si andrà bene là, fatto 5 lire lì, 10 lire là. E ti dà sempre male, sapevo, ma bene. E io già faccio un po' di tutto, Mario, già mi arrangio, capito? Poi sono accesa l'antenna anche, capito? Pappa gappa, Claudio, riprendi, se non ti addormenti. Io non mi addormento io. Se dormo quando sono nel letto, quando sono nella sedia già non mi dormo. Non c'è problema. Vedi, uno fa un po' di tutto e va bene così. Ma quando uno fa una cosa solo è sempre diciamo quasi la stessa cosa. Perlomeno a me mi capita di fare quasi sempre le stesse cose. Sono giornate un po' con cose diverse, ma inerenti sempre a quel lavoro. Ma di pigliarmi delle mani mi posso avvicinarmi, ho avvicinato da poco la ringhiera del poggiolo, che non era così sporca, comunque l'ho dato una passatina, era una giornata che ero a casa, c'era un pochino di venticello fresco, quei giorni che c'era maestrale, dopo che pantaloncino a petto nudo, due bisellate me l'ho fatta, lì, sino a lì ci siamo, ma non mi dire cazzo di venticello a casa, perché guarda, questa volta per dire è stata una decisione proprio finale, oggi peso una volta e basta, perché questo è 110 metri quadri, è grande, e ti dico che è stato un patrimonio. Allora, è fatto per sempre, e Ciccia si abbia il culo. E sempre non c'è nulla di fatto mai. Già lo sa, c'è anche la tappezzeria, quando hanno degli anni, si ingiallisce, si fa, e da me gli deve fare la vita, gli è sempre un fatto di denaro. Fratello e mia suocera Gianni Gusti, proprio veramente edilizia, fanno questi lavori, infatti hanno fatto loro, lì a Sassi via Spluni, dove io ho lavorato per anni, quando l'ho fidanzato, la sua tappezzeria Murella, che è grossissima ed è lavabile, c'è un prodotto che praticamente tu prendi la spugna, o con il rullettino suo, perché mi ha dato il rullo suo, lo metti in questo posto, lo metti che ce la vendi in terra, le offici, togli praticamente tutte le impurità del fumo, dei vapori, eccetera eccetera, è sempre una cosa fatta, certo, come hai detto tu, con gli anni poi si può staccare, può fare, ma chi l'ha fatta è un grande professionista, io conosco da ragazzino, da più di 60 anni, ed è, non so se lo conosci, si chiama sempre Scimola, Marco Francesco, ed è bravissimo, ha messo delle cornici in alto, su un marroncino, è venuto un capolavoro, non lo vedi qua, lo vedi, è venuto un capolavoro, è venuto anche Falchetto, l'ha visto, è venuto veramente un capolavoro, e quindi quel pensiero di verniciare l'ho tolto, però non si sa mai che tu capiti qualche altra cosa, no? Quanto può durare la tappezzeria, perché ci hai fatto bene, 10 anni, 5 anni? Non ci sono 6 anni, fatta bene, ma trattandola anche bene, che non ci sia troppo cosa di fumo, che non ci sia, perché tu la tocchi la tappezzeria e non ce n'è, però ci siamo mai. Infatti sotto le finestre ha dato un trattamento particolare, dove ci sono i termosifoni lo stesso, e ha fatto un buon lavoro comunque. Lo vedrai. Ok. E tu Antoma, il tuo mestiere vero e proprio, il tuo mestiere vero e proprio qual è, Bianchino? Ore. Non sento più. Vedi che si è pagato, è andato a vivo. Ci hanno chiamato la moglie, non lo so. Non lo so. Che quello è un lavoro, mamma mia, cazzo. Poi se ti capita c'è un parlamento, un che tu guardami. Oh Mario, ciu. E io non sono neanche andato a casa, piano piano, un passo per volta, e cosa ci vuoi fare? Che mi dico una cosa, che la moglie si tocca, così è come me. Ah, dimmi una cosa, non ho più sentito un acqua coso, come si chiama? E c'è nel nome. Ah boh, non so io. E prima rientrando dal lavoro, andando, facendo, si sentiva sempre di più, no? È un periodo che è buio. Ehi, basta giri canale, c'è la truffa. Lo so Mario, no? Al discorso di prima mi occupo di me, degli altri non mi interessa più niente. Sì, vabbè, non è che anche a me mi interessi. Sto dicendo che in radio non mi è più capitato di sentirlo, come non l'ho sentito più a Coso, a California, non ho più sentito più tanta gente che prima in radio c'era sempre, poco poco ma c'era sempre, capito? Vabbè, sono delle scelte. Sono delle scelte che si fanno. Io lo stesso non è che stavo entrando più di tanto. La radio non sempre accese, stavo ascoltando, poi è capitato così. Ci siamo conosciuti con Antonio. Allora ho detto, ci sentiamo magari la sera qua sul canale 10. Fare due chiacchiere, visto che da quando sono qua entra Piducetto, che lo sento molto bene da Budesò. Già ne entra di gente, non è detto di parlare sempre con le stesse persone. Non c'è problema. Io sono qua a Mario, quando la gente vuole entrare, il canale di tutti giustamente, e quindi ognuno può entrare, salutare, fare quello che vuole. A me non mi interessa. Evidentemente ci sono altri impegni, altre cose che non. Io sono mesi e mesi che non sento manco a Giulio più. Pensare che prendiamo il caffè assieme, ci vediamo spesso, ma non è che non mi credo. L'estate è un po' triste, magari sai, d'inverno è più piacevole. Se c'è un posto dove c'è fresco, come c'ho io, cioè la finestra aperta dall'aria, sto entrando una bella arietta, è piacevole stare un'oretta in radio, ma secondo me c'è la radio, cazzo che c'è caldo, è una rottura di palle. E vabbè, io sono dentro casa, non è che ci sia, c'è caldo lo stesso, ma non è che io in radio ci sono molto, io accendo, entro, saluti, scambio quattro chiacchiere, e poi me ne vado in camera a letto, in camera a letto c'è l'aria condizionata, ma meglio un po' guardare la televisione, una mezz'oretta, un'oretta, e poi mi chiederò, ma non è che lì domani bisogna lottare. Si conferma, ma non sto dicendo, vedi come me che ho proprio la stanza con la radio, c'è il televisore, c'è tutto, e qua condizionatore non ce n'è, ma ti ripeto, sulla finestra a metà con la guardariera, e sta entrando una bella rietta, quindi è piacevole. Se avessi avuto la radio, per dire, da un'altra parte, dove non c'è più caldo, non sarei entrato. L'inverno mi piace magari di più, ma adesso con questo sistema che ho fatto è molto bello, e quindi mi piace starci là, che sei indipendente, capito? Non è più come giù Mario in via Pasqua. Lì hai visto la bella radio, qua è proprio la stanza mia, perché le stanze sono tre, là erano due. Quindi c'è una stanza tutta mia. che finalmente dopo la vecchiaia sono riuscito a sistemare tutto e quindi niente, ognuno c'è la sua stanza, questa è mia e forse dice mi guardi bene. In quel caso là non sarei entrato perché c'era caldo, toccava stare con il condizionatore acceso e cazzo lo mandavano, mi avvisavo che lo parivo un coso, un pezzo di luce, cazzo, tutto mucciato. Beh, l'aria condizionata, se è arreggiato naturale meglio. Va bene, allora, io chiudo i battenti, salutami tutti quanti gli amici, che domani mi vado a fare, non dico alle sei, ma alle usetti, e poi iniziare a sistemare quello che ho già fatto, a mettere la roba a posto per poter fare l'altro lato. Ciao Claudio, ciao Lady Zipplin, se mi ascolti, a tutti gli ascoltatori, là, correci da parte mia, e ci sentiamo alla prossimina. E a Mario, d'accordo, e a te è successo qualcosa sicuramente, è mancata la corrente, non lo prende più, comunque se già sono qua in ascolto, se rientra te lo saluto io. Ciao Mario, buon lavoro, sono qua, lo chiacchiere fa sempre piacere scambiarlo. Ci sentiamo alle prossime, ciao, buonanotte, ciao ciao. Ciao ciao a tutti. Buona notte.